La tecnologia delle blockchain permette di certificare un'informazione senza che un terzo soggetto ci metta un timbro. Ma ho capito bene? Hai capito benissimo, Valeria, anzi, hai colto proprio uno degli aspetti più disruptive, più dirompenti della tecnologia blockchain, il fatto che elimini la necessità dei registri. La nostra società si basa sulla mancanza di fiducia gli uni negli altri. Finora nessun bancomat chiede al cliente quanto hai sul conto prima di erogare il contante, chissà perché. Invece verifica su un registro il saldo dello stesso. Il maledetto non si fida. Per trovare una soluzione alla mancanza di fiducia, si è nel tempo inventata la tecnica di istituire dei registri nei quali annotare diritti di proprietà, rapporti fra le persone, professioni. Se ci pensi un momento, siamo circondati da decine, migliaia di registri che definiscono quello che possiamo o non possiamo fare, quello che possediamo e anche chi siamo. Registri a cui diamo valore perché sono tenuti da soggetti terzi che ne certificano la veridicità. Ad esempio, la compravendita di un immobile si effettua davanti ad un notaio che successivamente provvede alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Così, per tutte le transazioni commerciali e finanziarie, ma anche per certificare un titolo di studio, un matrimonio, la nascita di un figlio, eccetera. Come giustamente dicevi tu, la tecnologia informatica delle blockchain consente di evitare la presenza di un terzo, notaio, banca, borsa valori, eccetera, che certifichi, ad esempio, una transazione di compravendita e di registri nei quali scrivere il passaggio di proprietà. Questo perché una compravendita diventa una informazione che fa parte, come dicevamo prima, di un database distribuito, decentralizzato e condiviso dai partecipanti di una rete in forma criptata e non modificabile. Lo sviluppo di questa tecnologia modificherà completamente interi settori e cambierà le nostre abitudini. Categorie professionali spariranno ed altre ne nasceranno. Pensaci un momento.